5 febbraio de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 5 febbraio. Stamani, mentre attraversavo il corridoio che conduce alla scuola di disegno, Mario Michelozzi mi si è avvicinato mormorando: «Uno per tutti!» «Tutti per uno!» ho risposto. «Vai nello stanzino del petrolio che è aperto. Dietro la porta troverai un bottiglione pieno di petrolio coperto con un asciugamano. Prendilo, portalo nel tuo dormitorio e nascondilo sotto il tuo letto». Maurizio del Ponte fa la guardia. Se sente gridare «Calpurnio!», lascia andare il bottiglione e scappa. Io ho eseguito l'ordine e tutto è andato benissimo. Oggi, durante la ricreazione, Carlo Pezzi ha studiato molto per scoprire quale stanza è quella al di là del mio armadino, ma più che con la sua scienza d'ingegnere si è aiutato chiacchierando con i muratori che seguitano a lavorare a certe riparazioni del collegio. Il Michelozzi mi ha detto: «Stasera tienti pronto. Mentre tutti dormiranno, noi ci occuperemo del riso e rideremo». Fine del 5 febbraio.